La domanda può sembrare secca, ma gli autobus a idrogeno sono veramente a impatto zero? Dipende come viene fatto l'idrogeno, e su questo io non ho ancora visto chiaro come gli autobus a idrogeno, ad esempio a Bologna, vengano alimentati. Perché l'idrogeno, il problema fondamentale è che in natura non esiste, e quindi già produrlo, lo si produce attualmente dal metano, e non vorrei che quello di Bologna venisse prodotto dal metano, ma qualche un po' lo temo, perché non si è detto niente. L'altra opzione, che sarebbe quella verde, sarebbe quella di produrre l'elettricità e elettrolizzatori, elettricità rinnovabile, che scinde l'acqua, quindi si parte dall'acqua e non dal metano, e l'idrogeno scinde al sistema di idrogeno. Il problema è che questa operazione costa un sacco di energia, produrre idrogeno costa un sacco di energia. Quindi gli autobus a idrogeno, per fare gli stessi chilometri corrispondenti a autobus a batteria, consumano 3 volte più energia a monte di elettricità rinnovabile. Nel primo caso, autobus a batteria viene caricata, viene mandata in rete per caricare le batterie e poi va alle ruote. Nel secondo caso, l'elettricità viene utilizzata per fare l'idrogeno, che poi deve essere trasportato, compresso, eventualmente liquefatto, eccetera, per arrivare dentro all'automezzo, che ha una cella combustibile cosiddetta, che converte idrogeno in elettricità. Perché anche l'autobus a idrogeno è un autobus elettrico, cioè un motore elettrico, solo che invece di ottenere elettricità da una batteria, che ha accumulato elettricità, la ottiene dall'idrogeno, che viene convertito in elettricità appunto nel dispositivo che citavo prima. Questa è la questione: come viene prodotto l'idrogeno e quanto è inefficiente complessivamente il processo, perché tipicamente è molto più inefficiente usare un autobus a idrogeno di un autobus a batteria. Questo è il punto chiave, bisogna fare chiarezza su quello. Conta anche dove si trova il sito di produzione, immagino, perché se l'idrogeno non viene prodotto, poi dove viene consumato bisogna trasportarlo. Esattamente, il problema fondamentale dell'idrogeno è che tipicamente, onde evitare problemi di trasporto, che è costoso e potenzialmente pericoloso, con il gas più leggero dell'universo, e quindi ha dei problemi di fughe, di intrusione in tutti i condotti nel quali passa, e quindi tipicamente viene compresso o liquefatto a bassissima temperatura, che pensate a 252 gradi sotto zero, quindi ha un costo energetico enorme fare questa operazione. Quindi, siccome a me non risulta che a Bologna sia stato realizzato un impianto di produzione di idrogeno, potrei sbagliarmi, non ho informazioni, ma spero che ci vengano date a breve, l'idrogeno probabilmente viene prodotto altrove, si parlava di Modena o di Ravenna, e trasportato a Bologna in camion, quindi camion che non sono né idrogeno né a batterie, quindi ci sarà anche una missione legata a questo tipo di trasporto. Quanto è sostenibile questa operazione? Non lo so, bisogna avere tutti gli elementi, cioè come viene prodotto, come viene trasportato e qual è l'efficienza dei mezzi che vengono utilizzati. A proposito di cose che avvengono o meno in Italia, appunto lei all'inizio ha spiegato la differenza tra idrogeno verde e idrogeno blu, ci sono già in Italia dei siti di produzione di idrogeno verde? Ma quanto mi risulta, non in maniera industriale. Purtroppo l'idrogeno verde ha ancora un problema enorme di costi, costa tra 3 volte e 6 volte di più della produzione da metano, quindi purtroppo ad oggi non conviene. La corsa in mezzo a idrogeno è legata ai fondi del PNRR, che prevedevano una quota per la produzione, per la realizzazione di flotte di idrogeno. Purtroppo, insisto, a me i conti di questa operazione non tornano, però aspettiamo i dati ufficiali e vediamo come, insisto per l'ennesima volta, viene prodotto questo idrogeno che utilizzeranno gli autobus a Bologna.